Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. D'accordo che la pubblica amministrazione non aiuta, essendo arretrata sul fronte dell'informatizzazione, mentre in altri paesi fa da apripista. Va bene che in Italia la rete non è completamente sviluppata e quella zoppica, però non basta. Non basta per giustificare quanto emerso dal rapporto che il Politecnico di Milano ha stilato a proposito della diffusione dell'informatica nelle sue molteplici sfumature tra consulenti e liberi professionisti. Soprattutto parliamo di avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro. È venuto fuori, insomma, un quadro non proprio entusiasmante, di cui parliamo con Claudio Rorato, responsabile della ricerca dell'osservatorio ICT e professionisti della School of Management del Politecnico di Milano. Buonasera Rorato. Buonasera a tutti. Diciamo che per quanto riguarda queste tre categorie professionali possiamo dividere due grossi gruppi. Il gruppo delle tecnologie indispensabili, richieste anche dalla legge per poter esercitare l'attività, e le altre tecnologie necessarie per fare un po' di business e magari anche variarlo. Insomma, le tecnologie più avanzate. Le tecnologie più diffuse che appartengono alla prima categoria sono quelle tipo la firma digitale. La legge richiede la firma digitale, per esempio, per i commercialisti che devono spedire le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate per conto dei loro clienti, hanno bisogno della firma digitale. Laddove invece il professionista, metto tra virgolette, un po' come imprenditore, sceglie di utilizzare le tecnologie per diversificare il proprio business, lì abbiamo qualche problemino perché i valori di utilizzo crollano. Stiamo parlando, per esempio, sia della gestione elettronica documentale. Ecco, qui ci sono delle robe pazzesche che ho letto sul rapporto, sì, no? Sì, ancora si stampano le mail e si archiviano in formato cartaceo. C'è addirittura una doppia archiviazione, nel senso che si fa l'archiviazione sia elettronica sia cartacea, quindi in realtà abbiamo una duplicazione di attività e una duplicazione di archivi. E qui parliamo tra l'altro di professioni che di documenti ne producono a iosa, figuriamoci, avvocati, commercialisti. Voi avete valutato anche la loro disponibilità a investire in ICT, che cosa è venuto fuori? Ma per quanto riguarda la parte hardware c'è molta intenzione a investire, perlomeno nel 34% dei casi, in PC, quindi personal computer più potenti. Hardware. Ed è una cosa importante perché si nota che c'è una propensione a investire dando attenzione alla performance dello strumento, non alla performance del processo lavorativo, che è quello dove effettivamente si potrebbero avere dei maggiori risparmi. Qui c'è meno attenzione, cioè si pensa ancora un po' troppo alla tecnologia come se ho il PC più potente lavoro meglio. Invece non è così, perché non c'è l'attenzione su tutte le attività lavorative dello studio, tanto che la propensione a investire in software che per esempio possono fare risparmiare tempo e quindi denari, significa difendere i propri margini se si investe nelle tecnologie di processo lavorativo, e la propensione diminuisce pesantemente. Oggettivamente però le categorie, secondo me, questa è la cosa positiva, si stanno interrogando su questa cosa, tanto che il 42% di tutti gli studi che hanno risposto alla nostra indagine, e sono stati veramente tanti, più di 1100 hanno risposto, ci hanno detto che il problema grosso nel 42% dei casi è la scarsa alfabetizzazione informatica da parte dei titolari. Ecco, è una grande presa di coscienza, secondo me, su cui le istituzioni debbono riflettere. Tra l'altro voi recentemente avete presentato questi dati a un convegno, e qui emerge un altro aspetto importantissimo. Si intitolava "Se parliamo di professionisti, in realtà parliamo di imprese". Qual è il punto? Il punto è questo, che siccome la dimensione prevalente in Italia è di micro e piccola dimensione, queste aziende, queste micro e piccole aziende ricorrono assolutamente ai professionisti per presidiare i loro processi di lavorativi in ambito legale, fiscale, contabile, amministrazione del personale. Quindi questi professionisti fanno parte integrante delle aziende. Cioè, se non parte da lì una spinta all'informatizzazione, probabilmente anche le imprese fanno fatica a informatizzarsi o sono poco motivate a farlo, perché poi se si relazionano con delle entità, pubblica amministrazione e consulenti vari che non usano l'informatica, insomma, a che serve? Dalla nostra indagine risulta infatti che nella maggior parte, nel 30% dei casi, ai professionisti viene chiesto consiglio da parte dei micro e piccoli imprenditori anche sugli investimenti in tecnologia. Grazie Claudio Rorato. A voi, buona serata a tutti e grazie. Grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani.